si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato a tutti, ascoltatori, ben ritrovati quando sono le 7:35 minuti di sabato mattina a una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. 349-238-6666 se volete scriverci un sms anche su WhatsApp. Tra poco la rassegna stampa, poi la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Allora cominciamo con una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8, poi inizieremo il programma vero e proprio. Più tardi naturalmente parleremo tanto anche noi di Brexit. Andiamo sui giornali, vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, ascoltatori, allora, beh, insomma, immagino che cominciate già ad averne insomma un po' le scatole piene di Brexit e di tutto questo lungo dibattito, ma il momento è storico, è veramente storico, non è ironico quello che sto dicendo, e quindi va vissuto in questa maniera. Anche se oggi siamo abituati alla velocità dell'era digitale che viviamo, per cui si cambia velocemente situazione, argomento, emozioni, emotività, tutto. Invece su questa questione della decisione della Gran Bretagna toccherà fermarsi un po' a ragionare. Lo fanno, cercano di farlo i giornali di oggi, che dedicano tutti pagine, edizioni straordinarie, speciali, quasi tutte dedicate a questo, con titoli come per esempio quello del Sole 24 Ore, shock Brexit. Un tempo si diceva titolo a 9 colonne, cioè un titolo che occupa tutta la pagina. Europa, svegliati. E questo è il senso del messaggio editoriale di Roberto Napoletano. Adesso leggeremo vari commenti. Il senso si va già oltre il voto della Gran Bretagna, ci si rivolge all'Europa e si dice: quale momento migliore se non questo di battere un colpo? Perché insomma, che l'Europa così com'è non funzionasse a dovere, non piacesse a molti, a tanti, forse addirittura quasi a tutti, anche agli europeisti più convinti, lo si sapeva. Adesso è arrivato il momento di battere un colpo. Il colpo invece l'ha battuto la Gran Bretagna all'Europa, secondo il titolo del Corriere, che scrive appunto il colpo all'Europa. Londra esce, crolla in borsa, Bruxelles vertice d'emergenza, la data simbolo 23 giugno 2016. Cameron si dimette, via ad ottobre. L'Unione Europea parla di subito i negoziati per l'addio, anche se a prendere tempo è proprio la Gran Bretagna. Su Repubblica una copertina speciale: cari ragazzi, l'Europa è vostra, non lasciate vincere i venditori di paure, col commento di Mario Calabresi. Poi il titolo vero e proprio: Brexit, crollano le borse, un piano per salvare l'Unione Europea. Avanti così, La Stampa scrive Brexit con la foto di un'auto dalla quale esce un braccio teso con una bandiera inglese sventolante. Brexit, il giorno che ha diviso l'Europa. Poi titoli, diciamo, più interpretativi. È quello di Libero: Dio strabenedica gli inglesi. E qua si rovescia la il punto di vista, un punto di vista favorevole. Brexit, conta la volontà del popolo. La grande democrazia d'oltremanica insegna a tutto il continente come ci si comporta con i cittadini, mentre in Italia il suffragio universale è considerato quasi zero e gli ordini piovono sempre dall'alto. Sicuramente questo voto britannico è una prova di democrazia, è una vittoria sul filo, quella del no all'Europa. Lo stesso sarebbe successo nel caso di avesse vinto il Remain, quindi comunque è un'Inghilterra divisa su questo voto popolare. Tra l'altro le analisi sono anche interessanti, adesso andremo a vedere le analisi su chi ha votato a favore di rimanere o di andare, i giovani, le città, le periferie, il titolo di istruzione, la condizione economica, tutti i fattori che hanno diviso gli inglesi su questo voto. Però dicevamo, una prova di democrazia da rispettare. E sicuramente l'Inghilterra con questo referendum ha dato un colpo sì all'Europa, ma ha dato anche una sveglia alla democrazia europea, mi viene da dire, perché sono anni che si discute, ma nessun paese aveva mai avuto il coraggio di affrontare in questa maniera la questione, tantomeno le burocrazie di Bruxelles, che hanno continuato a far finta di nulla di fronte ai tanti problemi che ci sono in Europa. Il giornale, oh my god, che botta, scrive: terremoto Brexit, Gran Bretagna shock, lascia l'Unione Europea, panico sui mercati, crollo storico a Piazza Affari, meno 12,5%. Poi andiamo, vabbè, un calcio all'Europa, scrive il Messaggero, c'era una volta l'Europa, scrive il Manifesto. Poi ancora titoli, il Fatto Quotidiano scrive: il no degli elettori ora spaventa tutti, i cittadini del Regno Unito votano al 51,9% per divorziare dall'Unione Europea, il Premier Cameron, che aveva voluto il referendum per rafforzarsi, si dimette, le borse bruciano 600 miliardi, l'ondata anti-establishment rischia di travolgere lo spagnolo Rajoy, in Spagna si vota domani e a catena anche Renzi in vista del referendum, già perché il referendum di ottobre non c'entra nulla con l'Europa, il referendum sulla riforma costituzionale, ma viene portato avanti dal premier Renzi europeista, più o meno convinto anzi, e quindi rischia, come dire, di pagare la somma delle situazioni, no all'Europa, no al referendum costituzionale italiano. Cominciamo a leggere alcuni punti di vista, inevitabilmente ci sono tanti punti di vista e tanti commenti editoriali. Da dove cominciare? Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, il primo titolo che ho letto, Europa svegliati, e dicevo, l'attenzione qua viene puntata proprio non più sulla decisione della Gran Bretagna, ma su quello che adesso tocca all'Europa di fare, all'Europa, quel che resta dell'Unione Europea, cioè gli altri 27. E allora scrive Roberto Napoletano: l'ultima perfidia degli inglesi è stata quella di prendersela comoda. Per discutere del divorzio dall'Unione Europea danno appuntamento ad ottobre. Loro se la prendono comoda. I mercati no. Non c'è stato un effetto Italia, ma è scattata la corsa al Bund tedesco. Si vendono BTP italiani e bonus spagnoli. Tutte, come sempre, di fronte alle crisi finanziarie. Tutte le banche europee pagano dazio, ma quelle italiane lo pagano di più. E pagano di più di quel che devono. È scesa fino ai minimi dal 1985, addirittura, pensate, la sterlina, ma si è indebolito anche l'euro, si è rafforzato il dollaro, l'oro e i beni rifugio. Questa è la realtà. L'errore politico più grave che l'Europa potrebbe compiere ora è quello di far finta di niente, di continuare a girarsi dall'altra parte. La decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea appartiene alla storia, determina una frattura profonda, pone un gigantesco problema politico, scrive Napoletano, ed esige risposte politiche all'altezza di una decisione storica. Non abbiamo più tempo per vertici vuoti e inconcludenti. Questa frase qua da incorniciare, ma naturalmente non è garanzia del fatto che non assisteremo ad altri vertici vuoti e inconcludenti. Ahimè. Prosegue il direttore del Sole: il Consiglio europeo non è la sede giusta per prendere decisioni forti, immediatamente produttive. Bisogna che lunedì, nell'incontro a tre, Merkel, Renzi e Hollande, l'Europa si svegli e batta un colpo. Per capirci, i tre premier, più quello spagnolo, rappresentano oltre il 70% del prodotto interno lordo dell'Eurozona, hanno tutti i numeri e le legittimazioni politiche per prendere le decisioni non usuali in termini di lavoro, crescita, welfare, sicurezza e immigrazione. Bisogna che la Germania si convinca che il suo straordinario surplus venga speso per un rilancio di cui godano tutti i cittadini europei, a partire da quelli tedeschi. E quindi l'attenzione nell'editoriale del Sole 24 Ore è sulla situazione economica, sulle decisioni da prendere e, ripeto, fare i puntati sull'Europa. Fare puntati invece sull'analisi del voto, in Gran Bretagna, da parte del direttore della Repubblica Mario Calabresi, che scrive: cari ragazzi, l'Europa è vostra, non lasciate vincere i venditori di paure. Cari ragazzi, siete nati in un continente di pace, non avete mai visto la guerra sotto casa, siete cresciuti senza frontiere, progettando di studiare in un altro paese, innamorandovi durante l'Erasmus, condividendo con gli amici le occasioni per trovare lavoro, i sogni o più semplicemente i voli meno costosi per vedere un concerto. Non importa se siete nati a Cardiff, a Napoli, a Marsiglia, a Barcellona, a Berlino, oggi le paure di molti dei vostri genitori e dei vostri nonni hanno deciso che la Gran Bretagna tornasse ad essere un'isola, che voi diventaste stranieri dall'altra parte della Manica. I vostri nonni, che sanno cos'è stata la guerra, dovrebbero avere a cuore un futuro di libertà per voi, ma insieme ai vostri genitori si stanno lasciando incantare da chi racconta che rimettere muri, frontiere, filo spinato servirà a farci vivere più tranquilli, sicuri, sereni, che tornare ad avere ognuno la propria moneta riporterà lavoro, prosperità e futuro. Ci stanno raccontando che la democrazia diretta, i sondaggi in tempo reale risolvono magicamente i problemi, che esistono sempre soluzioni semplici e a portata di mano, che non c'è più bisogno di esperti, competenze, che la fatica e la pazienza non sono più valori, che smontare vale più di costruire. Il continente è malato, ma la febbre di oggi è la semplificazione. Cioè, per il direttore della Repubblica Mario Calabresi, il punto non è, cioè sta proprio in quest'idea di semplificazione. L'Europa come capro espiatorio ideale, perfetto, ha trionfato in Inghilterra semplificando il quadro politico, e quindi è questo il senso di questo voto. Però poi conclude rivolgendosi ai giovani: aprite gli occhi, guardate lontano, pretendete un'eredità migliore dei debiti, vogliamo avere pace, speranza e libertà, non rabbia, urla e paure. Tappatevi le orecchie, non ascoltate gli imbonitori e pretendete politici umili, persone che provino a misurarsi con la complessità del mondo e siano muratori e non picconatori. Segnatevi sul calendario la data di ieri, venerdì 24 giugno 2016, e cominciate a camminare in un'altra direzione, a seminare i colori e le speranze. Una ragazza inglese che ha votato sì, ma non è riuscita a convincere suo padre e suo zio a fare lo stesso, ieri ha promesso ai suoi amici europei, con una voce tremante che mescolava imbarazzo e rabbia: verrà il turno della nostra generazione e allora torneremo, ci contiamo, chiude Calabresi. Retorico, ma con una visione, e la visione è quella di un voto nel quale hanno prevalso sui giovani, gli anziani, le generazioni passate, le paure sulle speranze per il futuro. Tra poco vedremo nell'analisi del voto che questa analisi si basa su un dato di fatto vero, cioè i giovani hanno votato per rimanere in Europa, gli anziani no. Traffico. E allora, 7:48 minuti, ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Andiamo avanti leggendo i giornali di oggi, dedicati insomma quasi integralmente, in gran parte, alla Brexit. Abbiamo letto l'editoriale di Mario Calabresi, quello del direttore del Sole Roberto Napoletano. Calabresi centrava l'attenzione sulla questione generazionale, tutto un editoriale centrato sulla generazione degli under 30 sostanzialmente, che ha votato a favore dell'Europa in Gran Bretagna, ma che è stata tradita da genitori e nonni. Per Massimo Gramellini sulla Stampa il concetto è lo stesso, il confronto è ancora più efficace perché si mescolano queste due figure, il giovane e l'anziano. Scrive Gramellini: traditi dai coetanei dei Beatles. Per un ragazzo di Londra l'Europa è la fidanzata spagnola con cui ha amoreggiato durante l'estate scorsa, nel corso dell'Erasmus a Barcellona. Per la vecchietta di Bristol, citata dal capo degli ultranazionalisti Farage, l'Europa è il migrante nigeriano che attraversa la Manica per togliere il lavoro al figlio inglese della sua vicina. Ha vinto la vecchietta di Bristol perché ci sono più vecchiette che ragazzi in questa Europa che non fa più bambini. E anche questo, diciamo, è il raffronto, il concetto. Ora che questa analisi si poggi su qualche cosa di vero, lo si capisce andando ad analizzare andando a leggere le analisi del voto che vengono fatte in queste ore, naturalmente in Gran Bretagna, la mappa intanto del voto in Gran Bretagna, se vedete per esempio sul Corriere, idealmente ad eccezione l'area di Londra, che è colorata di un Remain, tutto il resto dell'Inghilterra, cioè la cosiddetta periferia profonda, le piccole città, ha votato leave, cioè per lasciare l'Europa. Quindi prima divisione, grandi città, Londra, cosmopolita internazionale, vota per restare in Europa, il resto no. Poi c'è la questione generazionale, che è significativa, molto molto significativa. I giovani tra 18 e 24 anni hanno votato al 73% per rimanere in Europa. 73%. I giovani tra i 25 e i 34 anni hanno votato in netta maggioranza, il 62%, per rimanere in Europa. Ancora prevale il Remain tra gli adulti 35-44 anni, 52% a favore dell'Europa. Cambia la prospettiva quando si va sopra i 45 anni, e a mano che si sale, sale anche la percentuale di leave, cioè di abbandonare. Quindi con l'età si vota per lasciare l'Europa e per tornare all'Inghilterra isolata, isola isolata. E poi altre analisi riguardano il livello di istruzione, anche in questo caso manco a farla apposta, chi ha una laurea ha votato al 71% contro la Brexit, e invece quindi chi non ha un titolo di studio inferiore alla laurea, quindi il diploma, ha votato a favore della Brexit. Per cui l'identikit medio a favore della Brexit è istruito, cittadino e giovane, invece poco istruito, della periferia, anziano. E avete capito tutto, questo è il voto della Gran Bretagna, divisa totalmente a metà. Che cosa accade adesso nei vari paesi, nelle varie cancellerie, nelle varie situazioni? Anche qua ci soccorre il Corriere. Londra, la City rischia di perdere il suo passaporto finanziario, le banche già si organizzano, la grande fuga può cominciare. Quindi focus su quello che accade alla City di Londra. A Bruxelles i leader chiedono a Londra di notificare l'uscita al più presto. Ci sarà un vertice lunedì tra Merkel, Renzi e Hollande. Intanto Juncker, qualcuno scrive, rischia il posto, ma sarà quest'uomo che fa politica da circa quasi 40 anni, credo, Juncker, 35 anni, una cosa impressionante, un vero trombone, scusate, della politica, si può dire, uno che fa da 40 anni politico. In Italia ci siamo liberati persino di D'Alema, e in Europa non riusciamo a liberarsi di Juncker. Con tutto il rispetto, non liberarsi per un fastidio personale, ma per una questione proprio generazionale e di necessario ricambio, necessità di guardare in avanti. Cosa accade a Berlino? La Merkel dice no a decisioni affrettate, non invita Juncker al vertice, e qui già si vede che comincia a esserci un odore cattivo attorno a Juncker. Parigi, Hollande chiede un sussulto, ma la Le Pen, Marine Le Pen, cavalca lo strappo, adesso tocca alla Francia, cioè la Francia ha al suo interno la questione di Marine Le Pen, che cavalcando con tutti i voti che ha a disposizione la stessa politica di Farage, rischia davvero di candidare la Francia ad un Brexit 2, ad un Francia Exit. Scozia e Irlanda del Nord. E cosa succede in questi due paesi? C'è la spinta per dividere il regno, perché in Scozia e in Irlanda del Nord, nell'analisi del voto, si scopre che hanno votato a favore dell'Europa. Quindi adesso cosa succederà ai rapporti tra l'Irlanda e la Scozia? Anche questo è un punto che deve essere messo a fuoco. Un altro punto di vista particolare potrebbe essere quello della regina, ce lo ricorda la stampa. Nel regno disunito Elisabetta pensa alla reggenza di Carlo. La regina Elisabetta era di pessimo umore ieri mattina quando ha ricevuto la telefonata del premier David Cameron. Aveva sentito il notiziario da BBC e il colloquio con il primo ministro è stato più gelido del solito. Dimettendosi, avrà pensato, quell'uomo non fa che raccogliere quello che ha seminato. Che bisogno c'era di far votare gli scozzesi sull'indipendenza? E per poco non l'hanno approvata. Che cosa gli è venuto in mente di indire un referendum anche sull'adesione all'Unione Europea? Non era obbligato a farlo. Ha giocato con il fuoco come un bambino e ha incendiato il mondo. Beh, insomma, dal punto di vista della regina lo sentiremo anche, si può fare con Antonio Caprarica, che ha scritto un libro sul pensiero della regina, storico corrispondente Rai da Londra, è un punto di riferimento. Chissà se rimarrà solido o saldo o no in questo momento in Gran Bretagna. È tutto, dobbiamo dare la linea al giornale radio. Ci risentiamo dopo con Si può fare. Ciao, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. E buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Eccoci qua, 8 e 19 minuti, riprende una nuova puntata di Si può fare. Ascoltatori, 800 24 00 24, naturalmente vi aspettiamo per stare anche in vostra compagnia. Carlo, Milano Monterosa? Sole, c'è un bellissimo sole, questa è una buona notizia anche perché oggi c'è il Pride a Milano alle 15 in piazza Duca d'Aosta. Ah, pensavo una buona notizia che fa da contraltare alla Brexit. No, almeno c'è il sole. No, però mi sembra sufficientemente bella, non so, io l'ho vissuta malissimo. La questione della Brexit, ho passato questa nottata in compagnia di Mentana, come sempre. Diciamo, una cosa si può dire, gli inglesi veramente, veramente i sondaggi non li sanno fare, nel senso che di nuovo hanno detto no, non ascoltiamo i sondaggi perché l'ultima volta ci siamo sbagliati e stavolta di nuovo ci sono sbagliati, doveva esserci l'affluenza che era l'82 invece ma è stato il 70, infatti, e doveva vincere il Remain. Anch'io che ero in redazione quella sera lì, eccetera, eccetera, ci sono sondaggi, non ci sono sondaggi, non ci sono sondaggi, non ci sono exit polls, perché evidentemente gli inglesi diffidano di queste, sì. Però quei pochi sondaggi che comunque c'erano fanno schifo. Quelli a buon conto fanno schifo. Cosa ci accomuna, cosa ci divide dagli amici inglesi? È giusto o sbagliato che l'Inghilterra stia in Europa? Insomma, oggi la mattinata è libera, parola, microfoni aperti su questo, però tema naturalmente libero. Tema libero, come sempre, l'intervento che ci convince di più originale, più interessante, su cosa ci accomuna per esempio agli inglesi o cosa ce li rende diversi, perché insomma, in fondo, che l'Inghilterra sia un pezzo d'Europa un po' particolare, lo abbiamo sempre saputo. Non a caso sono loro che hanno preso l'iniziativa su questa cosa dell'Europa di cui tutti parlano, perché l'Europa non piaceva nemmeno agli europeisti, questo va detto. Pensavo stessi arrivando fino alla perfida Albione, ecco, speravo almeno possiamo quello. Arrivare e nei vostri commenti, così, visto che è un gioco, accettiamo sì. Anche vostre proposte tra virgolette vendicative, cioè se in questo momento a caldo, perché poi giustamente sì. Poi ci sarà la razionalità e uno con calma, non è che, però così, che c'è un momento proprio che dici porca miseria, perché io questo devo dirlo, mi sento un po' tradito dall'inglese, mi sento anche boicottiamo lo scotch whisky, così. esatto, cosa anche però mi sento anche un po' abbandonato nel momento del bisogno, perché come dici tu non è che siamo tanto contenti dell'Europa, l'Europa è un disastro per un sacco di cose, ma forse va cambiata piuttosto che scappare nel momento in cui ti sembra che c'è una difficoltà. Ecco, è in questo che mi sento veramente tradito, è in questo che durante quella notte in cui lentamente si vedeva questi che scappavano, brindavano sempre più ubriachi, brindavano sempre più per dire noi ce ne andiamo, ce ne andiamo prima che succeda il disastro, ciao, grazie, arrivederci. E poi risvegliarsi la mattina con loro, la loro borsa che ha perso il 3% e la nostra che ha perso il 12%, scusate, così non sono un economista come ben sapete, semplicemente vedere che i titoli bancari hanno perso un quinto del loro valore, io... vabbè, mi è venuta moltissima tristezza. Quindi se avete anche pensieri vendicativi, come giustamente diceva Alessio, anche semplicemente boicottiamo il whisky, niente di grave o pericoloso, ci può stare, sì. Ma solamente per i primi 100-150 anni lo boicottiamo, esatto, ovviamente. Non oltre. 800 24 00 24. Naturalmente anche oggi è la telefonata più originale, più convincente, più divertente. Si vince porta... una bottiglia di whisky, casa. Volevi dire? No. La, i biglietti per la mostra di un artista francese, Miro, certo, al museo MUDEC del museo delle culture di Milano, museo delle culture che come vendetta potremmo togliere la parte sull'Inghilterra, no, giusto. Rappresaglia, no, sì, no, rappresaglia no, però non mostre d'inglesi, ecco, mostre d'inglesi non le facciamo. 800 24 00 24, vai, iniziamo. Allora, intanto, momento di panico perché Miro non è francese ma è spagnolo. Ma non è un problema, siccome invece hai detto giustissimo, sì, perché la cosa importante è che è non è inglese europeo. E invece tutti gli altri sono europei, quindi sì, è uguale, spagnolo, francese, siamo tutti europei. Solamente gli inglesi che invece non sono europei, loro sono fuori dall'Europa, quindi sono inglesi. Tutti gli altri è uguale, siamo tutti insieme noi. È con noi Antonio Caprarica, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, ben trovati anche a voi. Allora, come prima, ti pregherei però sì, anzitutto di rettificare l'invito alla rappresaglia. Non boicottate il whisky perché colpireste gli unici che hanno votato. È vero, gli scozzesi. Vale a dire gli scozzesi. Hai ragione. Analisi del voto 1-0 per Caprarica. Verissimo, vero. Insieme agli irlandesi. Anche perché noi speriamo che Scozia e Irlanda in questa divisione, in questo divorzio, siano i figli che invece rimangano con noi, rimangano in casa, vengono affidati all'Europa invece che alla mamma cattiva. È quello che speriamo, diciamoci la verità, sì, lo speriamo un po' tutti, poi bisogna vedere, insomma, il processo non sarà un processo semplice, ma certo nel caso tanto di scozzesi che gli irlandesi si sono sentiti un bel po' traditi dai parenti stretti inglesi, si vedono costretti contro la loro volontà a lasciare l'Europa che invece non hanno nessuna intenzione di lasciare. E poi vabbè, insomma, io penso anche per dirvi... dirla proprio tutta, è vero che abbiamo visto insomma alcuni parecchi insomma inglesi di cui come si chiamano a Londra i Brexiteer, no? I sostenitori della Brexit, impazzare, andare in giro sventolando bandiere, tracannare tolitri di birra, insomma, però io ho visto anche tantissime facce tristi di ragazzi che non hanno toccato manco un goccio di birra proprio quella sera, oppure che se l'hanno toccata era solo perché erano tristissimi e hanno cercato di tirarsi un po' su con un goccio d'alcol e che invece hanno votato per rimanere. Insomma, vero. Vedere la cosa come sempre, cioè bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dove insomma, diamo un'occhiata a quella parte che ci pare almeno mezzo piena, no? Cioè il fatto che poi alla fine dei conti anche i risultati, l'indicazione, insomma, che metà sta da una parte e metà dall'altra. La verità è che il capolavoro di questi geni che hanno trasformato l'Europa nel capro espiatorio di tutti quanti i problemi, esatto, tutte quante le frustrazioni, il capolavoro che hanno ottenuto è stato frantumare un paese che invece è un paese esemplare in Europa, che è sempre stato un paese esemplare per tante ragioni, insomma, per crescita economica, per sviluppo, per apertura, per disponibilità. Insomma, molti europei si erano abituati a considerare a vedere la Gran Bretagna come una specie di europeo paese delle opportunità. Adesso, francamente, l'idea di andare a bere una birra in un pub con Nigel Farage a me fa venire la Però anche noi siamo per vedere bicchiere mezzo pieno, siamo il programma, si può fare, che guarda sempre avanti naturalmente. Intanto il fatto che il popolo abbia preso la parola possiamo vederlo come una buona notizia, anche il fatto che questo anti-europeismo, che era un po' come una pentola sul fuoco che bolliva di continuo, adesso è come se si fosse spento il fuoco, perché non può più bollire nello stesso modo, nel senso che adesso che è stato deciso che la Gran Bretagna uscirà dall'Europa, però sanno che cosa fare quelli della Brexit? Cioè, hanno un'idea, un piano? Perché io ho sentito giustamente qualche commentatore sottolineare il fatto che alcuni esponenti favorevoli alla Brexit inglese dicevano: beh, adesso vediamo, cominciamo a vedere, prendiamo tempo e vedremo che cosa fare. Come che cosa fare? Avete votato per uscire, adesso uscite, no? Sì, certo, ma la cosa non è tanto facile, quindi effettivamente è evidente il tentativo di questi coraggiosi capitani di dire adesso, beh, un attimo, tirate i remi in barca, aspettiamo, prendiamocelo con calma, perché come sapete i meccanismi di uscita prevedono la denuncia del trattato in base all'articolo 50, e allora questo significa che ci deve essere una formale notifica, no? È come quando uno avvisa il padrone di casa che sta per lasciare l'appartamento affittato, gli deve dare 3 mesi di anticipo. Certo. Però l'Europa, allora, l'Europa non vuole dargli tanto tempo, nel senso che l'Inghilterra vorrebbe aspettare. L'Europa dice benissimo, da domani fuori, non è che noi stiamo qua a aspettare voi i vostri tempi. Esatto, e in questo caso devo dire che non si tratta nemmeno di una rappresaglia, sia ben chiaro, anche perché poi capisco, ovviamente è chiaro che stiamo scherzando, nessuno di noi vuole rappresaglie contro questi nostri parenti stretti, che poi la realtà quella è. È colpa mia, è colpa mia, l'ho presa malissimo e ho iniziato con questa cosa della rappresaglia, chiedo scusa. No, non lo dicevo, e invece c'è davvero, si sente un po' in giro, io questi ultimi 2 giorni, insomma, ero in giro, non so quanti dibattiti più o meno televisivi, radiofonici, eccetera, ho fatto in queste serate, in queste giornate, e c'è un po' un'aria di dire, beh, adesso gliela facciamo vedere, adesso li facciamo pentire, adesso gliela facciamo pagare. Naturalmente non è così, non può essere così, insomma, sono veramente dirimpettai, è come se tu ti metti a litigare con il vicino di casa, di pianerottolo, anzi non di casa, di pianerottolo. Beh, che sono le liti di solito più furiose, però, bravo, anche detto. Esatto, anche quelle più pericolose. Esatto. Perché poi, come si è visto, in Jugoslavia quelle liti lì sono finite veramente tragicamente. Anche perché il pianerottolo è di entrambi, diciamo. Lì stanno, non è che possono andarsene. Ecco. Il buon Shakespeare diceva che l'Inghilterra era quest'isola di smeraldo incastonata in un mare d'argento. Ecco, lì bisogna stare attenti che l'isola di smeraldo non si allontani sempre più nel mare d'argento, insomma, non diventi un iceberg nell'oceano Atlantico. Più o meno isolata, no, sì, perché questo splendido isolamento non è detto che possa essere sempre splendido anche per il futuro, perché i tempi cambiano per tutti. Non è più l'Inghilterra ottocentesca, non è più la regina dei mari, non è più l'impero del corsaro Ray, che insomma non è più tante cose. A proposito, Caprarica, di regina, allora Londra stava con il Remain, Cameron, lo sappiamo ovviamente, ha scommesso sul Remain, i laburisti pure, anche se Corbyn non è stato molto convinto, ma la regina, cosa penserà la regina adesso della scelta che ha fatto il suo popolo, secondo lei? Ma io penso che lo sapremo ben presto, tra un centinaio d'anni, quando potremo leggere il suo diario. Penso che sapete che Sua Maestà, alla pari della sua Trisavola Vittoria, tiene scrupolosamente il diario quotidiano. Lei stessa, diciamo che è sempre una persona molto umile, contrario dell'arroganza di certi suoi sudditi, dice sempre: no, ma non è così interessante come quello della nonna. Beh, insomma, lo vedremo, perché in ogni caso annota i suoi sentimenti e riflessioni. Personalmente posso opinare, ma per carità è solo una mia personale convinzione, che proprio per le cose che ha sempre fatto, detto, per l'attenzione che ha mostrato verso l'Europa, eccetera, io non credo che sia particolarmente contenta. In più, anche perché è un risultato che mette a rischio, che non solo decreta, almeno per il futuro prevedibile, questa separazione insensata, ma mette a rischio anche l'unità della sua corona, insomma, che secondo me le dà anche molto a cuore. Sì, il discorso che facevamo prima, cioè su quanto possa reggere il Regno Unito da questo punto di vista. Perché... Ma si era espressa, chiedo scusa, è probabilmente mia ignoranza, ma si era espressa prima del referendum la regina a favore o contro? La regina non si esprime mai. Su nulla, perché costituzionalmente non deve esprimersi. Il giorno che comincia a esprimersi perde la sua qualità essenziale, che e l'assoluta imparzialità ed è ciò che garantisce la sopravvivenza della Corona. Senta, Caprarica, l'altro spiraglio di prospettiva positivo che, se vogliamo, possiamo guardare non tanto all'Inghilterra ma all'Europa, cioè quale occasione migliore a questo punto per cambiare davvero un'Europa che, diciamo prima scherzando, ma è la verità, forse non piaceva così com'è nemmeno agli europeisti più convinti. Da cronista di lungo corso della politica europea, riusciranno questi leader europei, la Merkel, Renzi stesso, Hollande, che si incontrano lunedì, a battere un colpo? Ci crede o pensa più al proseguimento di queste liturgie, di questi vertici che poi diventano sostanzialmente inconcludenti? Qui anche il più accanito e ottuso ottimista deve mostrare qualche segno, qualche crepa, cedimento, diciamo, ecco, perché io mi sforzo di credere, cioè vedo in realtà che lo shock è stato reale, è stato effettivo e le reazioni indicano una voglia reale di fare qualcosa. La tragedia però è che questa classe dirigente europea nel suo complesso è la più mediocre che il continente si ritrovi forse da 100 anni a questa parte. Io me la sono presa un pochino prima in rassegna stampa con Juncker, semplicemente per il fatto che ha cominciato, credo, a fare politica con ruoli di primo piano negli anni 80, primo ministro già nel 95, cioè in Italia c'era ancora Ciampi, credo, e quindi dall'idea, dal punto di vista proprio del tempo che non passa, di cos'è la classe politica europea oggi, insomma. Sì, voglio anche dire che tutto sommato però questi pecchi, se mi permette l'espressione del presidente Juncker, pecchi politicamente, forse conservano almeno qualche connessione con i padri fondatori e con l'idea di Europa che in quegli anni poi conosceva dei momenti gloriosi. Quelli che sono venuti dopo non è che mostrino maggiori qualità, intanto di coagulo proprio, cioè la capacità di raggruppare il continente o almeno le sue classi dirigenti attorno a delle idee. E poi la verità è che proprio, ecco, le idee, la sensazione che noi europei abbiamo è che ci sia stato un inaridimento della fonte dei progetti. Anche questa reazione che molti, per carità, sinceri, convinti, onesti europeisti hanno avuto, hanno da noi referendum niente, ma scusate, Non è così che si può combattere la crisi dell'Unione, cioè non è che si può tenere in piedi questo gigantesco progetto se non c'è un'adesione vera, convinta, dichiarata delle persone che dovrebbero parteciparvi. Cioè l'idea che una classe dirigente europea poteva valere in passato, l'idea di una classe dirigente europea illuminata che guida i popoli verso un avvenire meraviglioso, popoli un po' recalcitranti perché si sa che gli europei si sono fatti la guerra per circa 10 secoli, quindi cioè, non è che è la prima volta nella nostra storia che per 70 anni non ci massacriamo l'un l'altro da questa parte del continente, no? In Jugoslavia l'hanno fatto ancora nel 95. Però questo non vuol dire che la gente non si debba pronunciare, non vuol dire che non si debba ricercare il consenso effettivo attorno a un progetto. Adesso io vedo, appunto, come dicevate voi, facciamo un comitato lì, facciamo una commissione lì, mi pare, ahimè, che non sia quello scatto in avanti di cui parlava ieri opportunamente François Hollande, il presidente francese, e sentendolo parlare di scatto in avanti mi sono chiesto: ma perché dannazione non l'avete fatto 6 mesi fa? Che esatto, abbiamo esatto. A Brexit, però insomma adesso ora diciamo così o forse mai più, perché altro tempo non ci sarà. Staremo a vedere. Intanto grazie Antonio Caprarica, come veramente. Sempre la nostra buona giornata e mi raccomando tanto whisky, tanto whisky, se non altro grazie, perché in effetti gli scozzesi sono stati almeno in chiave europeista, loro sì, a votare per il Remain, quindi prendersela con loro, Carlo. No, ma noi li prendiamo proprio, prendiamo tutta la Scozia, speriamo, all'interno della comunità europea. No, ma per tornare a Juncker, sono andato a guardare, lui ha fatto il ministro per la prima volta nel 1984 nel suo paese. In Italia c'era il governo Craxi. 84. Il governo Craxi c'era in Italia. Quindi, Caprarica diceva, sì, almeno una classe politica che ha delle idee, può darsi, ma sicuramente poca capacità di mettersi in sintonia con le idee di oggi, credo, per un politico del genere che ha iniziato 40 anni fa. Sì, soprattutto di recuperare anche un'unione che sia anche emozionale, perché se l'unione è solamente quella delle banche è ovvio che ci si appassiona un po' poco al fatto di essere europei. Le vostre emozioni allora sull'Inghilterra, dentro o fuori dall'Europa, all'800 24 00 24. E allora, eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Abbiamo qualcuno al telefono? Certo. Sì, sì, sì, sì, chi abbiamo? Adesso non trovo la schermata delle telefonate. Chi abbiamo? Abbiamo Cristina da Vicenza. Benissimo, buongiorno Cristina, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Alessio, ciao Carlo. Buongiorno. Volevo consolare Carlo, perché secondo me il voto inglese vuol dare una lezione prima tutto all'Europa, che è basata sull'autarchia e sulla dittatura delle banche e del denaro soltanto. E lì gli yes men in fondo siamo noi. Come? Volevo dire... No, no, non ho sentito. Gli yes men siamo noi. Sì, siamo noi. Posso essere man. D'accordo, però dare una lezione, in realtà, invece che cercando di migliorare la situazione, ma semplicemente scappando e salvando solo la propria di pelle, non so se sia un buon modo. No, no, ma adesso io di politica non capisco una mazza, quindi parlo di Bella, viva l'onestà, brava, brava. Parlo, senza fare... Ci sono tanti perché... che fanno discorsi, applauso, vedi, che salgono sul piedistallo. Lei invece dice, grazie, giustamente, Cristina, io non so una mazza, vabbè, giusto. No, non capisco una mazza di politica, quindi lo dico proprio di pancia. Pagheranno anche loro economicamente, però loro non hanno paura di essere più poveri e dicono you care, smetti di fare il cretino, Renzi smetti di fare il cretino, la Merkel la salvo. E mettiamoci una mano sulla coscienza e partiamo con un'Europa più umana e non basata sulle lobby. Va bene, Cristina, grazie. Io grazie. Devo dire che da questo punto di vista non posso che essere d'accordo con lei. Cioè, il voto inglese da questo punto di vista è comunque l'espressione di un popolo, l'espressione popolare. Non hanno dichiarato guerra a nessuno, hanno semplicemente preso una decisione democratica ed hanno detto ad alta voce quello che in tanti dicono a bassa voce o anche alta, anche in altri paesi. Insomma, comunque, da questo punto di vista si può dire una prova di democrazia degli inglesi. Certo, molti, io tra questi avrei preferuto che il risultato fosse l'opposto. Ma io ho totale rispetto in realtà per il risultato, ci mancherebbe altro. Addirittura anche ci sono dei momenti che è quasi invidia per questo, però dico, penso che non sia questo il modo per risolvere la questione, semplicemente chiamarsi fuori. Invidia perché uno dice, ma forse noi stiamo malissimo, forse hanno fatto fin bene loro, quindi ci mancherebbe altro. Ettore da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno, sono d'accordo con voi su quello che dite, però io una piccola lezione gliela darei a questo. Sentiamo, che, sentiamo Ettore. Visto che si dichiarano extracomunitari, beh, che escano dal campionato europeo, che lasciano un posto libero a chi vuole entrare nella... Pensa, un campionato europeo con la Turchia e senza la Gran Bretagna, sarebbe fantastico, senza l'Inghilterra. Però questa è una provocazione che ci può stare. Tra l'altro già la Gazzetta di oggi dedica un titolo a Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, la Premier League trema, perché è piena zeppa di giocatori europei. Beh, quindi c'è un problema reale, concretissimo. Bisogna vedere cosa fanno. Ma lì secondo me troveranno la soluzione tranquilla. Ma ci sono tanti altri problemi, tutta la Formula 1 è a Londra. Sì, sì. Insomma, ci sono quindi, un sacco di... Ettore fa questa proposta, cioè di sospenderli, ma già da adesso, Ettore? Subito. Subito. Scusi, a un certo momento cosa stanno lì a fare? Visto che hanno votato, hanno deciso così che se ne vanno, almeno siamo a posto. No? Come sta l'Inghilterra in questo campionato europeo? Ma bene, è passato, no? È passato il turno. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Sta nella parte del tabellone dove c'è anche l'Italia, la Spagna, la Francia. Abbiamo già concesso abbastanza. Va bene, Ettore. Allora, deve giocare contro... Beh, adesso non lo so, però deve giocare. Certo. Sto sfogliando la Gazzetta, prima o poi ci arriviamo. Intanto grazie Ettore. Grazie, arrivederci. Grazie mille. Buona giornata. 800 24 00 24. La proposta di Ettore è fuori d'Inghilterra dal campionato europeo di calcio. Insomma, questo, tu hai scatenato la cosa sulle rappresaglie. Sì, no, e ma adesso non stanno arrivando. È giusto, va bene. Stanno arrivando, Allora, l'Inghilterra gioca con l'Islanda. Esatto, il suo ottavo di finale. Infatti, molti twittavano quando è uscita sono i risultati della Brexit. Diceva: l'Inghilterra è fuori dall'Europa, l'Islanda è i quarti. Ma la cosa bella è che noi abbiamo l'Inghilterra che gioca con l'Islanda, l'Irlanda che gioca con la Francia, un altro ottavo di finale. Dall'altra parte del tabellone abbiamo il Galles che gioca con Nord Irlanda. Quindi ci stanno tutti. E poi c'è Italia-Spagna, invece, che è quello che interessa a noi. Sì, diciamolo lunedì. Ma che ci frega alle noi 18. Della Brexit? C'è Italia-Spagna, traffico. One, due, tre, four. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore. Ah, che meraviglia, Carlo! Baciami ancora! Se... me lo stai proponendo? Ma sì, baciamoci tutti, perché se proprio la Brexit non va giù, consoliamoci, perché stasera è la notte romantica e in 178 borghi d'Italia, mezzanotte in punto, se ho capito bene. Sì, ci si bacia per un minuto intero. Limone di gruppo, esatto. Suggerisce Carmelo Lauricella, perché semplifichiamo le cose. Di questo stiamo parlando. È con noi Fiorello Primi, presidente dei borghi più belli d'Italia, l'organizzatore di questa serata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Cade proprio a fagiolo in questo momento difficile per l'Europa, una iniziativa che è nel segno europeo, perché se ho capito bene l'anno prossimo vuole collegarsi alla festa della musica francese, che viene dalla Francia. Ho capito bene? Sì. In effetti è proprio il momento adatto questo, anche per prendersi una pausa, no? Per divertirsi un po', per richiamare un po' l'amore e il romanticismo, ma soprattutto quello di stare uniti, passare delle ore insieme. Quindi in questi, ecco, abbracciamoci. Da borghi, sì, di eccellenza, questa sera a partire dalle 18 fino a notte fonda ci saranno di tutto e di più, insomma. Però a mezzanotte è il momento particolare, vero? Quello sì, in a cui... mezzanotte noi abbiamo proposto una sorta di flash mob del bacio in piazza, nelle piazze, che abbiamo denominato un minuto mozzafiato, quindi con il cronometro, no? Ma beh, te pensa che bello, ma non ci aveva mai pensato nessuno una roba del genere, cioè in tutti, nello stesso minuto tutti a darsi un bacio per strada? Esatto, c'è sempre qualcuno che la pensa per la prima volta. A proposito, ma voi chi siete? Ci dica un po', i borghi più belli d'Italia, lei è il presidente dei borghi più belli d'Italia. Sì, un'associazione istituzionale fatta da comuni, noi selezioniamo a seguito di una domanda che fanno i comuni. Ne abbiamo visitati, abbiamo una carta di qualità naturalmente con 3 parametri da verificare, ne abbiamo visitati 700 circa e ne abbiamo ammessi 250, di questi 250 questa sera circa 180, insomma, si sono inventati gli amministratori, gli operatori, le proloco, insomma, di tutto e di più, dal cinema, estemporanea di pittura, street art, insomma, c'è il meglio dell'Italia proprio che si mette in mostra. Ma quali sono questi parametri per diventare uno dei borghi più belli d'Italia? Allora, sono 103, non glieli posso dire tutti. A 103, avevo capito 3, le chiedo scusa. No, 103 parametri. Sono a blocchi, naturalmente, la bellezza estetica, quella è la prima cosa, evidentemente, ma poi c'è la qualità. Difficilissima da valutare, però, la bellezza estetica. Beh, la bellezza estetica è fatta di tante cose. Dentro la bellezza estetica sembra solo una trentina di parametri da verificare, dalle facciate, gli ingressi, i portali, le finestre, certo. tutta una serie, i tetti, come sono fatti, i comignoli, e poi la qualità della vita dei residenti, i servizi per i residenti, i servizi per i turisti, il paesaggio, la tutela del paesaggio, del patrimonio arboreo, insomma. Insomma, è uno scanner precisissimo per riuscire a tirare fuori i borghi più belli d'Italia. Cioè, tu dici che non è facile dare giudizio, però tra Busto Garolfo e Lerici, forse è abbastanza... È un pareggio, direi, no? E quindi stasera ricordiamo questo appuntamento particolare perché vogliamo dargli proprio fiato, no? A mezzanotte in punto e un minuto. Perché un mezzanotte e un minuto? No, a mezzanotte. Ci si bacia per un minuto. Scusi, ho sbagliato io. Sì. Tutti... E poi abbiamo fatto... elaborare una ricetta per un dolce che abbiamo denominato pensiero d'amore, è un dolce al cucchiaio molto buono, glielo posso dire che l'ho già assaggiato, e abbiamo dato a tutti i ristoratori dei borghi che organizzano questa... Ah, quindi nasce anche un dolce in concomitanza con questo... Ogni anno ci sarà pensiero d'amore, quest'anno 2016 e via via così. Poi dall'anno prossimo la trasformeremo in un prodotto turistico internazionale da diffondere un po' in tutto il mondo, poi già altre associazioni... Inghilterra compresa? Sì, assolutamente. No, siamo dei giorni della Brexit, allora ci chiedevamo se la volevate escludere. No, ma magari così gli facciamo ripensare un po', no? Giusto. Ma a proposito, non avete pensato, siamo sempre in tempo, secondo me, a inserire all'interno del programma della Notte Romantica anche un messaggio proprio agli amici inglesi. Cioè, uno di questi baci potrebbe essere rivolto a loro, oppure... Un bacio. O anche un gestaccio. Carlo faceva esempio, no? Però non è molto in linea con la Notte Romantica. Dobbiamo sempre essere inclusivi, quindi gli manderemo sicuramente un pensiero stupendo. Vedi, pensiero stupendo, citazione voluta, credo, della canzone in particolare. Ma perché secondo lei c'è bisogno di romanticismo oggi in Italia mondo? Ma guardi, noi, la nostra associazione fa parte di un contesto internazionale che si chiama Le Plus Beaux Villages de la Terre. Ora siamo sei nazioni che abbiamo i borghi più belli di... Chi c'è dentro? Quali sono gli altri paesi? C'è il Canada, il Giappone, la Francia, la Spagna, l'Italia, il Belgio, sta arrivando la Corea del Sud, la Russia, la Romania, insomma si sta... Vedi che bisogna per forza guardarci intorno e allearci e fare gruppo, questo e nel nome, è inevitabile. Ma nel nome dei valori forti, no, della bellezza, ognuno ha la sua, però c'è una sorta di scambio, no, di bellezze, cioè far diventare le differenze un elemento di opportunità piuttosto che un elemento di scontro. Ecco, questa è la nostra filosofia. Certo. Va bene. Quindi, complimenti, che dire? Siamo contenti. Invitiamo gli italiani a partecipare a questa notte, ma noi ce l'aspettiamo almeno 1,5 milioni, quindi però l'asticella l'avete messa bella alta. E ricordiamo anche che tutto questo non può non finire sui social, e quindi su Instagram, per esempio. Sì. Allora, su Instagram noi abbiamo lanciato... Vogliamo le foto di questi baci, in sostanza. Per questa notte c'è anche l'Instagram hashtag Borgo Romantico 2016, le migliori foto verranno premiate con un weekend in uno dei nostri borghi. Perfetto, quindi dateci dentro col bacio e con la foto. Grazie mille per essere stato con noi. Allora, su Twitter, devo chiudere dicendo questo, c'è un ascoltatore, Mauro Noviello, che dice: neanche l'Islanda e la Norvegia appartengono all'Unione Europea, che cosa c'entra l'Inghilterra, la rappresaglia dell'Inghilterra sugli europei? Era una battuta, direi che è abbastanza evidente che gli europei non è che si fanno perché c'è la comunità era europea. Era una battuta ed era la proposta di Ettore esatto. Come rappresaglia, sempre tra virgolette, sempre senza far male a nessuno. Almeno l'ironia non perdiamola, l'ironia non lasciamola non perdiamola, agli inglesi. Ecco. Rappresaglia o pensieri che volete dedicare oggi all'Inghilterra e all'Inghilterra in Europa e a noi europei, 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il giornale radio. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La grande città si illumina già con il neo negli stop rossi. Si riempirà nei bar e nei pub di rumori e di discorsi. Ciao a tutti, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 9 e 8 minuti, viaggio al centro del mondo, gli 883, grazie come sempre ad Andrea Piana, il nostro autore. Sentite cosa è andato a pescare. E vi ricordo che tutte le musiche le ritrovate nella pagina Si può fare sul sito di Radio 24. Ogni lunedì pubblichiamo i contenuti e c'è anche la playlist. Al centro del mondo c'è sicuramente lei, un personaggio italiano che abbiamo il piacere di avere qua con noi in collegamento questa mattina, volontaria di Wikipedia, ricercatrice universitaria, Yolanda Pensa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Yolanda, è un grande piacere. Tu sei al centro del mondo di internet, quantomeno in questo momento, perché hai portato il raduno della comunità mondiale di Wikipedia. O Wikipedia, come bisogna dire? Wikipedia. Come si vuole. Come si vuole. Regole FIP. Wikipedia, che come possiamo dire, l'enciclopedia online, non so, dici tu come dobbiamo definirla Wikipedia, come la definite voi? Beh, direi l'enciclopedia più consultata al mondo. Esatto, l'enciclopedia libera online. Libera online, più consultata al mondo, il raduno. È utilizzata ed è quella che ha 500 milioni di lettori, 70.000 contributori, perché le persone possono migliorarla. 500 milioni di lettori, 70.000 contributori, tantissimi pregi, anche qualche difetto, adesso ne parliamo, più che difetto di Wikipedia, abuso d'uso, per esempio anche da parte della categoria di cui io faccio parte, i giornalisti, molti oggi si limitano ad andare su Wikipedia, questa il famoso è la vostra copia forza. Incolla. Copia incolla, e quindi poi non è colpa vostra, ma finisce che tutti dicono, scrivono le stesse cose su alcuni argomenti, ma a parte questo, arriviamo al punto, il raduno che tu sei riuscito a organizzare a Esinolario, il tuo paese d'origine. Esattamente, sì. Detto così, vabbè, complimenti, arrivederci. Beh, non è una cosa da poco. Quanti? Anche perché la finale, se abbiamo capito bene, era contro Manila. ovvero era Manila o Esinolario, le ultime due, Manila la capitale delle Filippine, e ha vinto Esinolario. Noi siamo felicissimi. Beh, credo che sia, è stata una storia divertente, anche i media hanno seguito poi sì. Questa battaglia finale in modo molto appassionato e molto coinvolgente. È stato un progetto soprattutto non solo mio, credo che questa è la cosa più importante. Quello che forse sono riuscita a fare è stato proprio avere il lusso di collaborare con persone molto in gamba. Perché poi è impossibile fare un progetto come quello di Wikimania in un piccolo paese di montagna, certo, senza una reale collaborazione da parte di tutti. Avete fatto rete, si è capito retorica, il gioco di parole. Non è solo dire com'è bello fare le cose insieme, ma sì, proprio non potremmo farlo se non c'è l'adesione di tutti. Quindi è veramente una... Quindi chi dobbiamo ringraziare oggi per questo raduno che dà un po' di lustro anche all'Italia e a questo paese in provincia di Lecco in particolare? Beh, io comincerei subito con tutti i volontari, ed è un progetto dei volontari. Quindi sia quelli che sono accolti qui per lavorare, per partecipare al raduno che scrivono su Wikipedia, che si danno da fare per sistemare il software piuttosto che migliorare i progetti, e volontari quelli che ci aiutano a ospitarli, a rendere il loro soggiorno possibile, chi gestisce i mezzi di trasporto, chi la registrazione, gli alloggi, le emergenze mediche, la protezione civile che ci aiuta dalla gestione dei parcheggi alla la viabilità, insomma tutte le persone che sono attivamente coinvolte nel progetto in questi giorni. E poi c'è un'adesione del comune che è stato straordinaria, la velocità con la quale sono stati fatti gli interventi, il sostegno finanziario, ma anche in realtà il coinvolgimento attivo dei partner, perché veramente, ma anche la regione, se ho capito bene, vi ha dato una mano, la provincia, la fondazione Carip, la Wikimedia Foundation, e poi una coralità anche di sponsor commerciali che non menziono perché so che è complicata. No vabbè, ma infatti radio, non era per fare delle marchette, ma era per dire che insomma è un risultato, un gioco di squadra che ha fatto sì che si sia potuto realizzare questo evento, che è un po' più che un gioco di squadra, nel senso, sì, io sono rimasta abbastanza stupita perché di solito c'è questo desiderio di comunicare, no? Cioè alla fine vieni sostenuto per mettere un po' l'adesivo e dire ecco, sì, ci fai pubblicità. In realtà noi abbiamo avuto un coinvolgimento anche da parte delle aziende in cui il loro team ci aiutava, e alla fine ci sono persone che lavorano nelle aziende coinvolte che sono venute a partecipare alla Hackathon, l'evento di programmazione, hanno attivato i loro collaboratori come volontari per noi. Ed è abbastanza stupefacente, io non avevo mai visto una cosa del genere, di solito appunto metti lo striscione e basta. Certo. Quindi veramente un coinvolgimento che è andato un po' al di là dell'abitudine, ed è bello vederlo perché hai la sensazione che si condivide un sogno, no? Il piccolo posto che ce la fa, che ce la deve fare, che deve arrivare in fondo, ospitare le persone in un modo adeguato, mostrare che è all'altezza della situazione, anche dell'onore di comunque ospitare un simbolo come quello di Wikipedia. Certo, perché poi Wikipedia rappresenta il sapere. Esatto, e poi è la forza di Wikipedia questa, direi, nel senso che è la quintessenza del fatto di fare gruppo, di essere squadra, perché certo, è l'enciclopedia di tutti ed è consultata da tutti, cioè scritta da tutti e consultata da tutti. Sì, la magia anche che può esportare in altri mondi. Verissimo. Perché poi alla fine se questo tipo di modello, se questa utopia anche di creare una storia, un sapere condiviso che non è soltanto prodotto da una persona, da un editore, da un punto di vista, ma è prodotta da una coralità di voci, da più contributori, la capacità appunto di puntare quantomeno alla neutralità, e secondo me questo desiderio, questa capacità di mettere insieme persone diverse, forze diverse, sarebbe bello appunto che arrivasse in altri progetti anche, non solo online ma offline, come certo, stiamo cercando di fare noi. E anche perché Wikipedia mostra un'utopia in gran parte realizzata, perché ricordiamo che la critica che all'inizio si faceva tantissimo, diceva ma come può esserci un'enciclopedia dove ognuno dice la sua, in realtà è stato fatto uno studio per cui in Wikipedia ci sono meno errori che nelle enciclopedie famose e pubblicate. Era una delle grandi tesi di Umberto Eco questa. Esatto, perché nel momento in cui c'è un controllo di 70.000 persone, in realtà poi gli errori sono meno. La cosa che però volevo chiederti era come si diventa volontaria Wikipedia? Anch'io vorrei. E che cosa significa soprattutto? Prima di tutto provare il tasto modifica, quindi questo credo che sia... Tutto parte di lì. Ma sì, che è un po' il paradosso, no? Questa enciclopedia a disposizione di tutti, che tutti vedono, che tutti consultano. E se uno guarda con non particolare attenzione, vede anche che c'è scritto proprio modifica. È questo invito, in inglese edit. Oggi ci sarà proprio qua a Wikimania un incontro che si chiama Edit Button, il tasto modifica, proprio per dire ma provate a vedere cosa c'è sotto e iniziate anche voi a partecipare. Il mio consiglio è una cosa un po' è complicato scrivere su Wikipedia, adesso stiamo parlando di un'enciclopedia, quindi non è che tutti come hobby, come passatempo scrivono enciclopedie, però ci sono tanti modi per partecipare, si comincia guardando come sono i contenuti, magari uno vede un errore e allora nella pagina di discussione, ogni articolo ha una pagina di discussione, si dice ma questa cosa mi sembra che non funzioni, ho visto questo libro che dice questa cosa. E poi dalla discussione può nascere una vera e propria modifica, sì, della voce. E vale la pena cominciare bene dalla pagina di discussione, perché si propongono delle modifiche, si possono fare degli errori soprattutto all'inizio. Questa cosa di accompagnare, di avere la gentilezza di dire beh aspetta, non arrivo a gamba tesa su una cosa che stanno facendo altri, però certo, inizio a spiegare per quale motivo c'è un errore. Yolanda, Yolanda Pensa, volontaria di Wikipedia, resta con noi perché abbiamo le informazioni sul traffico, poi vogliamo tornare lì a Esino Lario per vedere come sta andando questo raduno, quanti siete, cosa fate, cosa state facendo e anche se avete chi ha aggiornato la pagina della Brexit, perché naturalmente qua le cose cambiano di minuto in minuto. Traffico. Eccoci qua, 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco vi aspettiamo di nuovo. Siamo in collegamento con Yolanda Pensa da Esino Lario, lei è una volontaria di Wikipedia, ci ha spiegato che cosa vuol dire esserlo e che cosa vuol dire avere organizzato, avere il merito di avere portato il raduno mondiale della enciclopedia online più letta al mondo a, in questo paesino in provincia di Lecco. Come sta andando il raduno? Quanti estensori di voci di Wikipedia hai portato lì a Esino Lario? Al momento le registrazioni sono oltre 1000, sono circa 1200 e mi sembra che le cose si stanno svolgendo molto bene, c'è un'effervescenza sia da parte delle persone di Esino che vedono appunto questa vivacità, insomma gli eventi e poi questa euforia da parte dei partecipanti nello scoprirsi questa inedita vivacità a Esino Lario. Ma si riconoscono fra di loro gli estensori, cioè dicono: ah, ma tu sei quello che ha scritto la voce su la Brexit, per esatto. esempio. È così? Allora sì, molte persone ti cercano perché hanno visto il nome nelle conferenze sì. piuttosto che nei gruppi di discussione e di solito sono qua proprio per cercare, c'è curiosità quello che anche. Ha fatto sì, che è conosciuto perché è un ottimo ricercatore, ha fatto delle analisi sui dati dei progetti, piuttosto che un'altra persona che ha delle competenze nelle tecniche e sa fare delle cose che tu non sai fare, quindi vai a cercarlo per chiedergli: aspetta, spiegami un po' questo pezzo che non sono capace, non riesco. C'è certo. moltissimo sì, c'è moltissimo contatto e ci sono moltissime discussioni anche su progetti che magari hanno avuto successo. Una delle esperienze molto interessanti che è stata fatta negli anni sono questi Wikicamp, che sono degli incontri con ragazzi in cui stanno, è come un campo estivo, però all'interno di questi campi estivi lavorano anche sui contenuti di Wikipedia. È stato fatto in Armenia e ha avuto un successo incredibile, ha permesso a tantissime scuole, tantissimi ragazzi di imparare come funziona l'enciclopedia, che vuol dire imparare a, non solo a scrivere, ma anche a saper fare una ricerca e poi diventare dei lettori molto più coscienti dei contenuti. Ma io mi immagino, non ti trema la mano prima di digitare qualcosa che poi verrà pubblicato su Wikipedia e letto da milioni di persone? Io sarei terrorizzato. Ma secondo Wikipedia comunque è una fonte secondaria o terziaria, cioè vuol sì. dire che non puoi mettere quello che pensi o quello che sai così a memoria. Devi sempre citare le fonti e quindi contribuire a Wikipedia nasce soprattutto a partire da una bibliografia, cioè prima prendi dei testi, ovviamente non puoi fare plagio, quindi devi controllare più testi e guardare che cosa è stato detto, citare le tue fonti, quindi è un lavoro che comunque è sempre accompagnato dalla conoscenza di tanti altri, non sei solo, se vogliamo, certo. perché non sei tu che metti il tuo sapere. Quello che ogni tanto mi lascia un po' perplessa delle fonti è il fatto che noi citiamo i giornalisti, quindi in realtà Wikipedia, ma i giornalisti non citano voi, scommetto. questo è un problema. Però un incoraggiamento per dire ai giornalisti: fate un bel lavoro, perché è veramente importante, perché noi poi i testi significativi li citiamo e diventate voi delle fonti primarie, siete importanti, perché noi siamo solo secondari, cioè noi arriviamo dopo le vostre ricerche. Quindi è in realtà un'esaltazione del lavoro giornalistico serio e di ricerca degli autori, di chi scrive, che poi alla fine è citato da Wikipedia non perché ha una pagina in cui si parla di lui, ma perché il suo lavoro è di grande valore ed è alla base della conoscenza. Giusto, molto giusto, ed è bello questo fatto di dire, visto che noi li citiamo, citateci. Citateci anche voi. Quanti secondi passano dall'accadimento di per esempio il voto sulla Brexit a quando viene cambiata la voce di Wikipedia? Pochi secondi in genere, c'è un tempo stimato? Infatti spesso lo chiamiamo un movimento perché all'interno non è una sola comunità la nostra, ma sono tante comunità, all'interno della comunità ci sono tante persone che hanno compiti diversi. Le persone che contribuiscono, che scrivono su Wikipedia, fanno operazioni molto diverse. Ci sono proprio le persone che sono appassionate e che si occupano di aggiornare i contenuti con le notizie più recenti. E di solito è proprio una piccola sottocomunità, se vogliamo chiamarla così. Poi ci sono persone invece che sono specializzate nel sistemare tutta la parte di categorie, come far organizzare i contenuti, altri che invece amano lavorare su un solo argomento, allora scrivono tutto sugli asteroidi piuttosto che i fiumi siberiani. Cioè, deve esserci qualcuno che... rapidissimo, che è quello che aggiorna le date di morte, perché la data di morte su Wikipedia arriva, pare, appena prima della morte reale. A volte io ho la sensazione che sia quasi un videogioco, no? Per cui ognuno ha delle specializzazioni e vince chi arriva prima e chi fa... In effetti sì, cioè c'è proprio ci sono delle persone che si appassionano a quello e seguono gli eventi e sono rapidissimi e cercano di battere le altre persone nell'arrivare prima con l'aggiornare i contenuti che sono più al centro delle notizie contemporanee. Certo. Grazie Yolanda, salutaci tutti i ricercatori volontari, gli estensori di Wikipedia lì a Esino Lario, buon raduno, c'è tempo fino al 28 per venire a farsi un'idea. Approfittatene, grazie mille, arrivederci, approfittatene anche perché gli altri raduni sono stati a Città del Messico, Londra, Harvard, Hong Kong, quindi sì. È una grossa occasione invece avere la possibilità di andare a Esino Lario, che è un po' più comodo per noi. Non è che poi nell'elenco delle città che hanno ospitato i raduni di Wikipedia l'Italia figura al fianco di Città del Messico, ma no, di sicuro Esino Lario, non avevano niente di più, è un posto stupendo. Ok, allora ascoltatori, se volete fateci un salto, perché no, la curiosità di andare a vedere come lavorano, chi sono in carne e ossa i volontari di Wikipedia. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo anche con gli ascoltatori. Di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buon sabato. E allora andiamo con Ezio che ci chiama da Verona. Buongiorno Ezio. Buongiorno. A voi. Su cosa volevi intervenire Ezio? Ma io volevo intervenire appunto sul discorso di torsioni, farle pagare, il discorso Brexit naturalmente, dicendo due cose. Beh, innanzitutto se qualcuno, se un amico se ne va, bisognerebbe domandarsi perché lo fa e quindi guardarci dentro noi prima ancora di boicottarlo. Giusto. O di tagliare i ponti. La seconda cosa è che ci sono centinaia di migliaia di ragazzi, di giovani italiani che studiano e lavorano in Inghilterra e che insieme ai giovani inglesi assolutamente non volevano questa uscita e quindi questi ragazzi vanno aiutati, vanno capiti, vanno supportati, altro che fare ritorsioni. Quindi secondo me è maturo ed è adulto ed è sarebbe assolutamente importante che invece noi, i politici, aiutassero questa situazione. Sì, no, chiariamo solo che abbiamo detto, Carlo scherzando ha detto ritorsioni, ma stavamo scherzando, assolutamente l'arma da utilizzare in questo caso è quella dell'ironia, questo ovviamente di cui parliamo. Anche per non lasciare solamente lo humor inglese, esatto. Ecco, per sottolineare. Mettiamoci del nostro. Sono d'accordissimo e gli italiani in Inghilterra, se non sbaglio, sono 800.000, se non la prima, una delle prime comunità più grandi di cittadini che vivono in Inghilterra, quindi il problema è enorme, ci mancherebbe. Semmai possiamo dire anche che ne abbiamo parlato l'altra settimana, sicuramente ci sarà qualche problema burocratico in più anche abbiamo parlato degli studenti Erasmus, abbiamo conosciuto uno di loro che è appena tornato dall'Inghilterra, però non si esaurirà questo flusso dall'Italia verso l'Inghilterra e il contrario, anche se l'Inghilterra dovesse uscire dall'Unione Europea non sarà questo che accadrà, fortunatamente non è possibile che questo accada, ci sarà qualche problema in più, lei dice un pensiero e quindi lo raccogliamo. Ezio, grazie per averci chiamato, grazie. Rivolto ai giovani, agli studenti che stanno, italiani che stanno in Inghilterra. Ci siamo concessi un velo di malinconia su questa Brexit, chissà quanti di questi studenti di cui parlava l'ascoltatore sono passati per la libreria di Ornella Tarantola, la Italian Bookshop di Londra. Buongiorno, in collegamento da Londra. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vi sento malissimo. sì, ma posso dirlo. In compenso sono già le ritorsioni della Brexit. Esatto, è perché ormai siamo separati, voi siete a Londra e quindi stanno tagliando anche i cavi. Sarà la Vodafone che sta tagliando i ponti con il resto. È vero. Senta, stiamo scherzando naturalmente, Ornella, noi la sentiamo molto bene, questo è l'importante, quindi anche gli ascoltatori la sentono benissimo. Lei da quanti anni è a Londra? Tanti, se ho capito bene. Io sono 23 anni che sono a Londra a vendere, quindi, insomma, libri italiani agli inglesi. E da qua, e quindi questa libreria da quanto tempo ce l'ha? 23. Ah, proprio il primo giorno che è andata a Londra ha aperto la libreria, esatto, non è che ha perso tempo. Cioè, sbarcata con l'aereo aveva già un sacco di libri in mano da iniziare a vendere. Come e se è cambiata in questi anni la prospettiva del rapporto con l'Europa continentale? È andata stringendosi e adesso invece c'è questo brusco stop. Sono ore difficili per lei o no? Ma guardi, ieri è stata una delle giornate più brutte da quando sono in Inghilterra, sicuramente, perché per la prima volta mi sono sentita straniera in un posto dove in realtà è casa mia, cioè io la sento fortemente casa mia. Oggi devo dire mi sono un po' ribaltata il pensiero, nel senso che succederanno, ci saranno tantissimi problemi, però non voglio che la mia mentalità, non voglio che il mio cuore cambi, nel senso che voglio rimanere sempre pensando che siamo tutti insieme, più ampio, di più europeo. No, cioè la paura di questo referendum, l'ignoranza che ha fatto vincere questa cosa, non deve vincere. Senta, Ornella, stando alle analisi del voto che sono state fatte sui giornali, ma appunto in base proprio alle statistiche, l'identikit medio di chi ha votato per Remain, cioè per rimanere in Europa, il britannico medio che vuole restare in Europa, è credo il frequentatore di una libreria di Londra, per esempio, come potrebbe essere la sua, cioè istruito, giovane e che vive a Londra. Quindi dal suo punto di vista era inaspettato questo risultato? Ma guardi, io ci ho sperato tanto sul Remain, ci ho sperato tanto, purtroppo devo dire la realtà di Londra è una realtà viziata, cioè completamente è viziata, non è l'Inghilterra del Nord, non è il paesino della Cornovaglia che ha votato stay, ma sull'ignoranza. Cioè loro non sanno, per esempio, che quando ci sono state tutte le alluvioni è stato tutto ricostruito grazie ai soldi europei. Bisognava dirglielo, però. Sarebbe ancora col secchiello alla paletta a raccogliere il fango, se non ci fosse stata l'Europa. Purtroppo queste cose non si sanno. Il referendum è stato basato sull'immigrazione, sulla paura, e ha fatto vincere per cui le persone anziane, le persone più deboli. Sì, è stato anche un po' colpa di questa campagna, perché come lei giustamente come prima cosa ci dice questa. Direi che i politici inglesi invece sono stati molto furbi, quelli della Brexit, a buttarla solamente sull'immigrazione, che spaventa tutti, spaventa anche qui da noi, basta dire qualcosa sugli immigrati che tutti si spaventano, però invece giustamente lei dice andava preso anche il buono, andava raccontato bene il buono, invece quasi sempre è stato raccontato il pericolo di uscire, attraverso il pericolo non si vince. Ma se noi abbiamo il capo dei laburisti, Corbyn, che dice il giorno prima a me l'Europa non piace tanto, però voto in, io lì ho capito che basta, era finito. Non c'è stato un fronte compatto, unito. Senta, ma a questo punto diciamo che per i fautori dell'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea non c'è più questo alibi adesso in politica dell'Europa, no? Perché piano piano inizieranno le trattative per questa fuoriuscita. Ma secondo lei andranno avanti veramente su questa strada? Hanno le idee chiare i politici della Brexit? Perché io ho sentito, sarà una mia fissazione, ma ho sentito qualcuno di loro dire: beh, adesso cominciamo a vedere, vediamo un po', andiamoci cauti su questa cosa, vediamo cosa dobbiamo fare. Quasi come se loro stessi non si aspettassero di ottenere un risultato favorevole, quindi adesso non sanno neanche loro forse come gestirla questa uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Ma guardi, io ho questa impressione uguale a lei, ho avuto questa impressione, Boris Johnson che si guardava intorno per dire e adesso tocca a me, essendo lui un poveraccio, per, diciamolo, Boris Johnson. In che senso? Un poveraccio di testa proprio, mi scusi. Vabbè, cioè in quel senso, sì, sì. Ecco, cioè si trova lì a dire oddio, ho già distrutto Londra. Adesso mi tocca distruggere del tutto l'Inghilterra, perché diventerà lui probabilmente. È lui l'uomo, l'uomo nuovo del futuro, l'uomo nuovo, insomma, l'uomo del futuro, ecco, conservatore. Ecco, abbiamo detto tutto. Ma, che cosa, cioè, ma perché ha distrutto Londra come sindaco? Che cosa ha fatto come sindaco di così terribile? Beh, l'ha venduta ai ricchi. Cioè, non ha costruito una casa per le persone, diciamo, chiamiamole così, normali, che sono dovute andare a vivere fuori Londra, però grandissime abitazioni vendute poi ai cinesi, agli arabi, ai russi, e sono case vuote perché questi sono investiti. Ma poi lui che non vuole gli immigrati, una delle cose che ha fatto, cioè non ha pensato a, cioè inutile che diciamo che l'Europa bla bla bla, guardiamoci in casa cosa abbiamo combinato. Ornella, un'altra domanda stupida che le voglio fare è questa, è proprio la domanda stupida del giornalista che chiede a qualcuno che sta in un altro paese che faccia hanno le persone oggi, cioè nel senso c'è qualcosa sui volti delle persone che disegna un'espressione diversa, oppure si riprende col tran tran? Io ho visto una ragazzina piangere perché lei il suo sogno, ma era piccolina, il suo sogno era fare l'Erasmus. Cioè, sa quelle cose che tu a 15 anni, perché hai visto i cugini, io voglio fare l'Erasmus, io voglio, quindi soprattutto andare in Italia, per i giovani, c'è, cioè, anche una reazione emotiva, quasi come se davvero questa isola si dovesse allontanare dal continente. Ma un po' si allontanerà, si allontanerà purtroppo. Ma che aria, perché anch'io volevo capire che aria si respira, ovvero se c'è anche un po' una sensazione di tutti gli stranieri che si sentono più uniti fra di loro, cioè che si sentono tutti in qualche modo extracomunitari in un paese che non è più nella comunità europea. Ah certo, c'è è una sensazione strana, le devo dire, perché le dico, sentirsi stranieri in quella che consideri la tua casa, perché per me Londra è casa mia, è una sensazione brutta ed è una sensazione che hanno gli altri. Io lavoro, i miei colleghi sono francesi, spagnoli, ho colleghi di tutta Europa, e c'era solo il desiderio di abbracciarsi. Ecco, va bene, questo sì, potrà naturalmente continuare a farlo concretamente e metaforicamente, anche se ci sarà una frontiera, ma in certo, più da dover attraversare. L'odio non vince mai. Grazie Ornella, grazie Ornella Tarantola da Londra. Grazie mille. Titolare della Italian Bookshop. La spero di andare a presentare il mio libro, giusto? Bisogna dirlo questo. Ah, dobbiamo organizzare, assolutamente. Sì, assolutamente. Ti chiederanno il visto però a questo punto. Vabbè, allora, ma io chiedo a Ornella Tarantola. È arrivato il momento di presentare il primo appuntamento vero della nostra nuova rubrica, l'appuntamento con il crowdfunding. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Ogni settimana, ogni sabato a quest'ora, oggi siamo arrivati un po' lunghi perché c'era tanta Brexit. Troppa Brexit da discutere. Ogni settimana due progetti che vi presentiamo dalla piattaforma di Apple, due progetti di crowdfunding che si presentano ai nostri microfoni e cercano un finanziamento dal basso. Allora, sono con noi Matteo Rossi, cofondatore di Wolf Tour, mobilità lenta in Abruzzo. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Salutiamo però anche l'altro nostro ospite, Alessandro Izzo, fondatore di Ilicaoni Digital Studio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Allora, cominciamo con Matteo, cofondatore di Wolf Tour. Come, intanto, visto che avete deciso un nome inglese e noi siamo quelli dell'italiano. Anche perché gli inglesi non sono più con noi. Non va molto di moda. Come si traduce in italiano il vostro nome? Allora, noi il nome si traduce Giro del Lupo, fondamentalmente, nel senso che il termine tour è per legge da inserire all'interno di quelle società che decidono di fare della propria attività il tour operator, e Wolf era l'animale che caratterizza un po' quella parte d'Abruzzo che noi andiamo a vendere, perché noi siamo specializzati nella vendita della vacanza attiva intorno a, diciamo, all'area del Gran Sasso d'Italia, per cui il lupo era quell'animale che un po' caratterizzava quel territorio. Siccome la nostra idea era quella di vendere, di portare in Abruzzo soprattutto persone che venissero da, appunto, soprattutto dall'Europa, ecco che il nome ci sembrava che rappresentasse bene quello che era il core business della nostra attività. Certo, ma senti, ma se devi spiegare il core business, come funziona il vostro progetto, ma però lo devi spiegare, appunto, lo devi spiegare tipo a tua nonna o a mia mamma, come glielo spieghi? In un minuto. In un minuto gli dico che se ha la capacità di finanziarci, noi con pochissimi soldi gli daremo dei percorsi attrezzati per rendere la sua città, il suo paese, la sua area molto più vivibile e molto più bella, perché il progetto ha l'idea di non utilizzare più i mezzi a motore, ma solo mezzi a trazione animale o umana, collegando quelli che sono un po' i sette paesi dell'area Vestina con la parte al di là dell'Appennino, che è quella della Valle del Tirino. Mia nonna non ha capito niente, forse questa è la spiegazione per gli investitori, perdonami, nel senso, okay. Già mezzi a motore, cioè capiamo, automobili, carrozze, cavalli. La nonna di Carlo ha scritto un tweet e ha detto non ho capito. Allora, riprovaci in 30 secondi. Ok, glielo rispiego. Andiamo in bici, viviamo i nostri paesi bellissimi dell'Abruzzo in bici, a piedi, col cavallo, con l'asino, come era una volta. Sto sognando. Mia nonna ti sta preparando un caffè ed è molto contenta. Quale obiettivo vi siete posti? Quale obiettivo economico vi siete posti? Allora, l'obiettivo non è altissimo, è quello di 10.000 euro, perché dobbiamo riattrezzare dei sentieri che esistono già, perché il nostro territorio poi insiste molto su quella che è l'area del parco del Gran Sasso, per cui i sentieri fondamentali mentalmente ci sono, si tratta di riattrezzarli, di disegnarli, di renderli fruibili in alcune zone e di prendere un parco mezzo, che è quello delle bici, delle bike, per poter poi dare la possibilità a tutti di usufruirne. Bene, Matteo Rossi, cofondatore di Wolf Tour. Adesso la parola ad Alessandro Izzo, fondatore dei Licaoni Digital Studio. Intanto con un nome difficilissimo, esatto. Non lo vuoi dire? Cosa vuol dire questo nome? I Licaoni o Twinkie Doo? No, Twinkie Doo's Magic World. Twinkie-Doo è uno scoiattolo che è la mascotte dei Magic World, che sono dei grandi centri di divertimento, diciamo, basati sul prodotto alimentare del muffin. Questo è il marchio ovviamente fittizio che abbiamo inventato per mettere in moto tutta la storia. E in italiano come lo diresti? Il magico mondo di Twinkie-Doo. No, Twinkie-Doo rimane Twinkie-Doo. Ah, è un nome, è un nome. Qua era facile, qua va bene. Qua era abbastanza facile, eh? Quello sì, era preparato. E invece parliamo sempre a mia nonna, se ci spieghi il progetto. Spiega il progetto a mia nonna in un minuto. Ma ci ho provato con la mia, ma dopo 10 secondi ho detto, guarda, non mi interessa, non te li do i soldi. Ma la nonna di Carlo invece vuole sapere, è molto curiosa. Vogliamo realizzare un film, un lungometraggio, un film horror che abbia dentro anche tutta una serie di messaggi, diciamo, sulla nostra condizione, soprattutto italiana. Per fare questo film abbiamo bisogno del sostegno del pubblico, soprattutto online, perché è 10 anni che proviamo a realizzarlo questo film per i canali convenzionali e non ci è mai andata troppo bene. Pensiamo che la storia meriti, e quindi l'abbiamo portata sul web per vedere se effettivamente altri samannati come noi la pensavano in questo modo. Posso dire che forse un buon modo sarebbe vedere alcune vostre produzioni che, se non sbaglio, io conosco molto bene, come Milano Film Festival, perché vi abbiamo invitato più di una volta. Tra l'altro nel 2012 avete avuto un riconoscimento importante, avete vinto il premio Google Next Up, quindi diciamo che qualche conferma ce l'avete già avuta, quindi diciamo sarebbero soldi ben investiti. Cosa date in cambio? Perché uno dei meccanismi del crowdfunding, oltre al DVD, ai finanziatori. No, il DVD non lo diamo perché siamo a risparmio. Date la VHS? Diamo direttamente la VHS. E invece c'è una ricompensa prevista? Abbiamo puntato molto sul digitale perché effettivamente il progetto si presta, quindi tutto quello che avverrà per digitale. Poi ovviamente ci sono dei premi tipo le magliette, quelle digitali sarebbe un po' difficile da mandarle, però di base abbiamo tutta una serie di artwork, il cortometraggio in anteprima, e poi puntiamo molto sul fatto che noi tramite il canale YouTube ultimamente negli ultimi anni abbiamo portato avanti una rubrica di cinema, quindi spieghiamo in maniera semplice e divertente il cinema, la grammatica cinematografica, il processo di realizzazione, e quindi molti dei contenuti extra saranno proprio legati anche al making of di questo cortometraggio, dove spiegheremo ai più interessati tutti gli aspetti della produzione. Allora, voglio chiudere con il classico appello in 30 secondi per portare gli ascoltatori potenziali finanziatori dalla vostra parte. Cominciamo con Matteo Rossi di Wolf Tour Mobilità Lenta in Abruzzo. 30 secondi, vai. Sostieni la nostra campagna, perché vedere per i borghi dell'Abruzzo tornare la gente, andare a piedi, a cavallo, con la bici, è veramente qualcosa di meraviglioso. I borghi sono fantastici e viverli a passo lento è qualcosa di veramente eccezionale. Ok, allora Alessandro. Alessandro Izzo di Twinkie Doo's Magic World, 30 secondi. Sostieni il Twinkie Doo's Magic World, un progetto folle e indipendente che porterà a realizzare un film che rinverdirà il cinema di genere italiano dopo anni di oblio. Ma perfetto. Che meraviglia! Quanti bravi. Soldi cercate per Twinkie Doo's, che non ve l'abbiamo chiesto? Quanti soldi? Sì. Pochi, 3.000 euro. Perfetto. Quindi la mia nonna, volendo, poteva darci una mano. Ma esatto, esatto. Volevo spiegare agli ascoltatori che non è che si stanno cercando chissà quali finanziamenti, cercano 3.000 euro. Fatevi avanti, fate la vostra offerta. Bravi, parsimoniosi. Grazie a Matteo Rossi, Alessandro Izzo. Grazie. E naturalmente trovate tutto su Eppela e poi anche sui nostri canali. Ogni sabato faremo ampia pubblicità di questi progetti e continueremo a raccontare ogni sabato mattina due storie, Crowd Me Up, e poi insomma, se ascoltatori avete lì un progetto che vi sta a cuore, che state per lanciare, sappiate che da oggi c'è una nuova rubrica nella radiofonia italiana che si occupa proprio di questo. Si può fare ogni sabato mattina alle 9:30. Adesso, su questa base di silenzio assoluto, c'è il traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Eccoci qua, ascoltatori, 9:47 minuti. Sono proprio orgoglioso di questo nuovo appuntamento Crowd Me Up, nel quale sentiamo proprio anche le voci direttamente dai protagonisti di queste storie di finanziamento dal basso, progetti imprenditoriali, ma progetti sociali, culturali, c'è di tutto di nel tutto. Crowdfunding. Messaggi si può contribuire, così, esatto. Se vogliamo dare un nome italiano a questa rubrica, visto che l'inglese, soprattutto poi da oggi, basta. No, messaggi... Niente di particolare. Niente di particolare. Abbiamo tempo forse per chiudere con un paio di telefonate, però adesso è il momento invece di sentire un'altra voce consueta di Si Può Fare e di Radio 24, e in particolare il sabato mattina la voce dei ragazzi di Radio Immaginaria. Questo ve lo dico, è l'ultimo appuntamento in questo formato. Ne siamo tristi noi. Eh sì, perché ci hanno portato nel mondo dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni che animano questa radio immaginaria, che sta avendo tanto successo, che collabora in tante realtà e che ha collaborato anche con noi in questo viaggio all'interno della scuola e non solo, a caccia di storie e di risposte al fenomeno del bullismo. Ma poi li ritroveremo, li inviteremo in studio li vogliamo in studio, perché fino ad ora abbiamo sentito le loro voci solo registrate in questo viaggio che hanno intrapreso nel mondo del bullismo. La nuova puntata di Caccia Bulli, sentiamo questa volta, so che la storia è molto bella perché a parlare è proprio uno di loro, un bullo. Ma lasciami stare, mi devi lasciare stare, hai capito? Smettila, dai, non ti ho neanche toccato. Hai un bullo avvitato tra i piedi? Svitalo con il cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. Dopo la scorsa puntata siamo tornati con altre due storie. Noi siamo Radio Immaginaria, l'unica radio da adolescenti in Europa composta da ragazzi dagli 11 ai 17 anni. E questo è Cacciabulli, un programma dedicato al bullismo nel mondo degli adolescenti. Oh yeah! Questa è la mia storia in un paese piccolo che mi considerano un bullo. che io non sono. Ma perché ti considerano un bullo? Cioè, cos'è successo? Perché qualche volta ho fatto a rissa, perché sempre con delle offese. Cioè, quindi è capitato? Ma forse erano degli scherzi, delle bravate tra ragazzi? No, perché se erano degli scherzi, a scherzare così, io non lo capirei. Invece lui l'ha fatto proprio con cattiveria, m'ha offeso di brutto, gli ho detto che non voglio che faccio rissa davanti a tutti, che non mi piace, non mi piace farmi vedere. Quindi tu sei un ragazzo tranquillo, cioè non vorresti fare queste cose? No, perché non mi piacerebbe neanche farlo, perché so che quando faccio rissa non mi controllo e qualche volta faccio del male, ma non mi piace, ecco. Ma tipo io, cioè magari forse adesso tutti ti considerano un bullo, cioè succede così? Sì, perché ci sono dei ragazzi che mi dicono: ragazzi, non ti prendo, non vieni con noi perché fai dei danni, fai dei casini così e non voglio che giriamo insieme a te. E io dico: va bene, a posto, allora la prossima volta. Cioè, quindi ti escludono praticamente? Qualche volta sì. E tu come reagisci? Cioè, ci stai male? No, cioè lo capisco, perché hanno visto che le voci girano, che dicendo che io picchio, che faccio, ma sempre per qualche motivo c'è, cioè, in mezzo, motivo c'è sempre. Però, cioè, forse è ora di cambiare anche, di non reagire più così. Beh, a me piacerebbe tanto cambiare, tanto ci sono delle persone che non cambiano, ecco. Radio Immaginaria. Questa era una delle nostre storie, ascoltiamone un'altra. Sì, sì. Questa è la mia storia. Alle medie purtroppo ero vittima di bullismo e i ragazzi delle medie, quelli di terza media in particolare, mi prendevano in giro, mi facevano gli sgambetti, mi buttavano giù dalle scale e cose di questo genere. Le cose sono degenerate fin quando un giorno alcuni ragazzi della squadra di basket della scuola, dopo l'allenamento, mi chiusero nello spogliatoio, mi placcarono, mi tolsero i pantaloni e mi strapparono via le mutande, facendomi girare per lo spogliatoio nudo. Le cose non sono migliorate perché il professore non fece nulla di rilevante per punirli, dato che nei giorni seguenti loro non mi sono parsi dispiaciuti per quello che avessero fatto e nemmeno gli insegnanti hanno fatto dei provvedimenti severi. Tuttavia alle superiori le cose non cambiarono, dalle violenze fisiche passarono alle violenze verbali, finché un giorno non ci vidi più e tirai un pugno in faccia ad uno di questi ragazzi e lui smise di parlarmi, proprio non mi guardò più. Però c'erano tantissimi altri bulli in classe, non potevo prendere a cazzotti in faccia tutti. Quindi in quinta superiore capii che forse questi insulti dovevo vederli più come degli scherzi e scherzai con loro. Questa è la prima volta che ne parlo e penso davvero di essermi tolto un peso. Anche questo episodio di Cacciabulli è finito. Ci sentiamo sabato prossimo e se avete una storia da raccontarci, inviatecela a radioimaginaria@gmail.com affinché tutti quanti vi possano ascoltare. Ciao! Svitalo con i Cacciabulli di Radio Immaginaria. Ogni sabato su Radio 24. E allora, in realtà questo è l'ultimo sabato per quanto riguarda Cacciabulli, ragazzi di Radio Immaginaria, che salutiamo e abbracciamo. Sono tanti, tantissimi, hanno dato tanti contributi. E speriamo di invitare presto in studio, sì, sì, e averli qui con noi. Speriamo che vengano. Fino ad oggi il sabato era un problema perché vanno a scuola, ma adesso la scuola è finita, poi c'è la puntata della domenica, almeno fino a giugno, all'inizio di luglio, poi saremo in onda. Informazione di servizio solo il sabato nel mese di luglio, prima della pausa estiva. Allora, abbiamo parlato molto di Brexit e abbiamo coinvolto anche gli ascoltatori. Elena da Monza, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao Elena, su cosa volevi intervenire? Sì, in realtà volevo intervenire appunto sulla Brexit, dicendo che danno, diciamo, un messaggio positivo, nel senso che secondo me la nuova generazione di giovani che entrerà in politica, che si è formata grazie ai programmi Erasmus, io ho fatto il Leonardo, cambierà le cose, deciderà di delegare all'Unione più materie su cui legiferare, perché è vero che le persone sono scontente dell'Unione Europea, ma non ci dobbiamo ricordare che le istituzioni europee sono state delegate soltanto alcune materie dagli Stati e quindi l'Unione Europea è una democrazia monca, nel senso che sono gli Stati che decidono fino a dove l'Europa si può spingere. Quindi tu condividi l'ottimismo di prospettiva, per esempio, di chi come oggi Mario Calabresi su Repubblica scrive un articolo nei quali dà appuntamento ai ragazzi inglesi nel momento in cui potranno tornare a essere maggioranza nel loro paese, i ragazzi che hanno votato effettivamente, stando alle analisi, a favore di rimanere in Europa, quindi è un futuro prossimo nel quale in qualche modo l'Inghilterra faccia marcia indietro, forse anche. Esatto, io sono convinta che finalmente ci prepara questa prospettiva e soprattutto spero che si comprenda bene come funziona l'Unione Europea, in modo da non usarla come capro espiatorio in modo soltanto opportunistico. Per cui cioè, è una scelta politica, l'Europa va in una certa direzione se noi facciamo un rilancio politico e se le deleghiamo certe materie, se partecipiamo democraticamente e rafforziamo il Parlamento e non mandiamo in Parlamento insomma una certa visione di un'Europa populista che va a destra e che ha il coraggio solo di fare scelte. Va bene, non Elena, anche perché cittadini. Devo dire che questo è il punto, no? Secondo me debole di molti anti-europeisti, che non si capisce se la vogliono eliminare l'Europa o se la vogliono riformare, perché per riformarla, sono d'accordo con te, ci vuole più Europa. Allora bisogna chiarirsi se la riformiamo, nel senso di migliorarla dall'interno con più Europa, oppure se semplicemente usciamo, ci sfiliamo e questa Europa la chiudiamo. Questo devo dire che non è chiaro né nelle posizioni della Brexit inglese neanche in quella nostrana. Grazie. Sì, grazie, buona giornata. Voglio dare grazie la parola ancora ad un'altra ascoltatrice, Paola da Firenze, per chiudere questa puntata di oggi molto Brexit inevitabilmente. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno. Io ho una domanda più che altro. Sì. Per capire, allora mi risulta da quello che ne so che la Gran Bretagna non ha l'euro, ma non era neanche nell'area Schengen. Quindi non capisco perché per i nostri giovani che lavorano e vivono lì o studiano lì potrebbero esserci problemi. Perché ci sono una serie di accordi legati all'appartenenza all'Unione Europea che facilitano tutte le procedure. Per esempio, ne abbiamo parlato settimana scorsa per gli Erasmus. O le borse di, per esempio accadere. Le borse di studio, molte sono pagate dalla Comunità Europea e solamente per i Paesi membri. Ed è questo. Grazie. Niente, ci mancherebbe. Per una volta informazioni di servizio anche si può fare, eh? Sembravamo cuore e denari, sembravamo. Carlo. Eccoci qua. Oggi c'è il Pride a Milano, tocca giustamente ricordarlo, è importante anche dopo fatti di Orlando, ci sono Pride anche in altre città, Milano alle 15 in Piazza Duca d'Aosta. È tutto, grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Licella oggi in regia, ci risentiamo domani 8:30 10 con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, buon sabato. Ecco, ci ascolta in podcast.